so quello che ti voglio dire, ma parole per te, non voglio stare a soffrire. Ricordi i nostri visi, i nostri occhi, volavamo verso diversi lidi, divisi dai nostri stessi alti e bassi, come se non ti conoscessi. Ma ora che diresti? Non sai, no, non sai più muoverti distinto. Ti senti persa, senza il tuo orientamento. Intorno a te vivo un sogno, ma sono io di cui hai bisogno. Di fronte a questo cielo esprimo il mio desiderio di essere con te adesso. Non è più lo stesso da quando questo cavaliere ha perso il suo regno. Resto a contemplare il mio cielo, privo di un astro. Vago senza meta, giorni passano. Vago senza un'identità, la vita va a disfarsi di me. Un'alba di un destino che sento allontanarsi. Che significa amarsi? Per te sono solo compromessi. Mi chiedo che rischi ci correresti. Mi chiedo che pensi adesso. Possibile che per te è lo stesso. Tutto a un costo, il mio stato averti persa. Pensa, ci siamo resi conto solo adesso di come ci siamo presi in giro in questi mesi. Presi dal nostro coro, il nostro canto è andato stonando in due soli distinti, per due palchi non convinti, costretti ad intonarsi così affievoliti, sì. Ora come siamo rimasti, cosa siamo rimasti? Maestri di orchestre mute. Io che cercavo parole da dedicarti, ma averti ha significato perderti. Fuori da questa luce, all'ombra di un buio che non mi dà voce, è stato mio il coraggio. Sapevo che al più ero solo di passaggio, e questo è faccio, il mio viaggio. Silenzio e lo scroscio della pioggia, se fuori mi affaccio e su sentimenti allo sfascio. Di fronte al mio foglio liscio, su cui la birra scorre. Inutile mette imporre, inutile supporre. Ora sono solo io, di fronte al destino a correre.